16 minuti e 20 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino di lunedì 21 dicembre, al microfono sempre Simone Spezia. Alle 8.35 avremo ospite la professoressa Antonella Viola, con la quale fare un po' un punto, un po' di ragionamento su questa variante inglese che tanto ci preoccupa, per parlare con lei anche un po' di vaccino, di piano vaccinale, di che cosa vuol dire appunto questa nuova variante. E poi sarà con noi la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, molte domande per lei, anche per lei ovviamente, tra cui il destino dei nostri connazionali che al momento si trovano in Gran Bretagna ed erano lì lì per tornare, come qualcuno ci ha scritto, volo annullato all'ultimo minuto. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp e ovviamente come sempre l'800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta iniziate a prenotarvi adesso. È il momento come sempre di un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno, eccoci qua. Eccomi qui. Oggi, come vedi, la Brexit è arrivata con qualche giorno d'anticipo, una decina di giorni d'anticipo, perché quello che è accaduto per la variante del virus nato nel Kent, già a inizio settembre in un distretto carcerario del Kent, poi a dicembre, i primi di dicembre, si è conosciuta questa variante, c'è stato un boom di casi nel Kent. All'improvviso il Kent era una regione che aveva pochissimi casi, insomma era una di quelle regioni, noi diremmo da zona gialla, e da inizio dicembre hanno cominciato a moltiplicarsi a dismisura. Sembra che non abbia un tasso di letalità maggiore di quello che ha il Covid-19 che conosciamo noi già qua in Italia, a parte il fatto che già qua in Italia è già ieri sera è comparso a Roma, all'Uccellio, sì, una coppia. Ma oggi ho visto che Massimo Galli, che è il virologo di cui io mi fido di più, non so se sia virologo è la parola giusta, ma insomma è fra quelli che parlano, quello che mi dà maggior fiducia insieme a Crisanti, dice non fatevi illusioni, è già ovunque, è chiaro che questa è una replica, assistiamo, questo non lo dice Galli, sì, lo dico io, a quello che è accaduto con Wuhan. Ho visto che per esempio Walter Ricciardi li accusa, gli inglesi sapevano e non ce l'hanno detto, maledetti, come noi facevamo a Wuhan. E quindi è chiaro che uno, prima di dare un annuncio di questa gravità, ci pensa varie volte. Il discorso vale per Wuhan, ma vale anche per Londra. Ma quando tu lo dai e ci hai pensato varie volte e l'hai studiato a fondo, a quel punto è già diffuso. Come è noto, il virus è già in Australia, in Olanda, dappertutto, insomma. E quindi ha ragione Galli a dire che è in tutta un film Europa. Un film già visto, si chiudono i voli quando però appunto ormai il virus è qua. C'è Boris Johnson che ha parlato ieri di questo, no? Eccolo. Certo. Yesterday afternoon I was briefed on the latest data that shows the virus eccolo qua. La grande preoccupazione britannica, che poi corrisponde al fatto che tutti quanti chiudano i voli e gli arrivi da e per la Gran Bretagna, come dicevamo, in una sorta di film già visto. Paolo, di film già visto e di un'anticipazione del film nuovo, quello della Brexit, nel senso che verrebbe da dire avete voluto l'isolamento, eccolo, tenetevelo. Adesso gli unici sono cattivo. Gli Stati Uniti che ma questi, insomma, adesso sono discorsi da non fare qua in questa sede, meritano di essere fatti in modo più approfondito, però se il popolo vota, il popolo deve essere anche responsabile delle conseguenze del voto, è inutile girarci intorno, non è che si può fare diversamente se nel 2016, poi 4 anni fa, l'Inghilterra si è pronunciata. Comunque tengono aperti i voli al momento gli Stati Uniti, però vedrai che anche loro prenderanno delle contromisure. Guarda, sui giornali ancora non c'è, ma è chiaro che questa notizia della variante del virus avrà contraccolpi politici consistenti, nel senso, allora, contraccolpi innanzitutto sociali, vedrai, già se ne parla, vedo in quella intervista di Ricciardi sul Messaggero, già si dice, ma scordatevi che il 7 gennaio si torna a scuola, qui occorrono provvedimenti più rigidi che durino almeno un mese e mezzo, E non è escluso, ti dico, non è escluso che nell'allarme generale, come l'altra volta, stavamo per liberalizzare tutto in vista del Natale, poi la Merkel disse io chiudo tutto e noi abbiamo fatto marcia indietro. Questa volta c'è l'annuncio che abbiamo appena ascoltato di Boris Johnson e non è escluso, attenti ascoltatori a fare programmi per Natale e Capodanno, perché ci può essere qualche sorpresina, nel senso che qualche sorpresina nel senso di indurimento. Comunque passiamo alla politica. Sì, allora, passiamo alla politica. La politica... Senti, sì. No, volevo chiederti se secondo te a questo punto, perché da queste parti, Paolo, abbiamo sempre detto che la crisi era improbabile, che c'era il voto per il Presidente della Repubblica e che alla fine Renzi non sarebbe andato fino in fondo. E ieri però abbiamo queste parole di Rosato che sono state durissime. Sì. Durissime. Durissime, tant'è vero che il giornale con un editoriale di Sallusti che si pronuncia abbastanza esplicitamente per Draghi, interpretando i silenzi di Draghi come un silenzio assenso, il giornale già festeggia, il giornale ex di Montanelli, adesso di Alessandro Sallusti, il giornale di Berlusconi, e dice Draghi che tace fa buon brodo, le dichiarazioni di Conte vengono di Rosato vengono prese molto sul serio, perché ha detto tra maggioranza e Conte la fiducia è finita, quindi parlando anche a nome degli altri che si sono però subito dissociati, PD e il Movimento 5 Stelle hanno detto non andare così in fretta. E poi ho visto un'intervista al Corriere della Sera a Franceschini, sì, che dice che parla già di elezioni. Sì. No, non è proprio un'intervista. No, Paolo, non è proprio un'intervista, è quelle cose strane che in realtà sono interviste, ma non sono interviste. Cioè, è Franceschini che avrebbe detto ai suoi, ai ministri, avrebbe ripetuto la frase: a questo punto andiamo alle urne con un'idea di Conte alla guida della coalizione, se ho capito bene. Sì, Conte alla guida della coalizione, questa è la notizia che contiene. Guarda, svelo, siccome faccio il giornalista da qualche anno, cosa si fa? Quando si fanno, Franceschini avrebbe detto agli amici, vuol dire che si è parlato con Franceschini, che lui non ti ha autorizzato a riportarle con un'intervista, e allora tu usi questo trucco e quindi sono parole più vere, nel senso che le interviste sono noiose e bisogna navigare tanto leghe per leghe per trovare una frase che abbia un significato, mentre invece queste cose, i cosiddetti retroscena o analisi informata, chiamali come ti pare, sono più curiose. E comunque avrebbe detto, Franceschini ha detto, che lui pensa a un centrosinistra unito contro Salvini, guidato da Conte. Poi a me sembra una cosa insomma che sia precipitosa, nel senso che basta che tu osservi quello che sta succedendo a Roma intorno alla vicenda della Raggi, sì, che è scatenata contro il PD, il PD sta rompendo con Calenda, cioè, a Roma lo schieramento antidestra rischia di andare alle elezioni comunali in frantumi, nel senso Calenda, un candidato del PD che vogliono fare le primarie, la Raggi che è rinvigorita, ovviamente adesso non è più la Raggi al lumicino di cui si parlava qualche tempo fa, oggi la Raggi può competere per avere il secondo posto. Tra l'altro la Raggi ha messo fortemente in difficoltà Conte, il governo, l'ala governista del suo partito, perché ha chiesto immediatamente fondi per il Campidoglio, e il governo questi fondi non li ha perché, come tu notavi stamattina facendo la rassegna stampa, li sta buttando in mancio, mancette dappertutto. Ho visto 3 milioni di euro l'anno per i licei musicali con indirizzo jazz, poi il cargo bike, il centenario della nascita del primo presepe, insomma le cose che tu citavi stamattina. Guarda Paolo, ti posso dire quello più bello, il più bello in assoluto secondo me è questo, Allora vengono stanziato il denaro per l'osservatorio per i beni immateriali dell'UNESCO, è bello, l'osservatorio. Beh, certo. Per i beni, perché serve un osservatorio per verificare che i beni immateriali patrimonio dell'umanità dell'UNESCO italiani siano osservati, ma immagino, suppongo. Io lo capisco, si è sempre fatto così, però nell'anno in cui si presenta la variante del Kent del virus Covid-19, forse si poteva evitare di disseminare la manovra di mance. È una cosa davvero insopportabile e offensiva, anche perché poi tu vedi pochi soldi stanziati per la sanità, qua stiamo parlando invece del Next Generation EU, ma pochi soldi per la sanità e una fiumana di stupidaggini che servono per soddisfare questa clientela. E poi, per carità, non è niente contro le scuole di indirizzo GEZ, anzi, però questi sono tempi eccezionali e mi sembra che ci sia poca consapevolezza dell'eccezionalità dei tempi. Ognuno continua a fare le cose per conto suo. Ti segnalo che dopo Feltri l'altro giorno, che ha fatto un durissimo articolo contro Sala dicendo che era il peggior sindaco da quando Milano aveva un sindaco, o comunque di questo dopoguerra, oggi ce n'è un altrettanto duro di Belpietro, cioè c'è uno scatenamento contro Sala che non mi sarei aspettato, nel senso che avevano sempre avuto nei confronti di Sala un atteggiamento, non dico benevolo, ma neutro. Quasi. Ma quasi benevolo. Invece, a proposito del caos e della mancanza di consapevolezza dei tempi, ti segnalo che a Capri il sindaco Marino Lembo se l'è presa con De Luca, ha detto che lui si comporta da isola autonoma, tiene aperti bar e ristoranti e se ne frega delle disposizioni, che la Caserta è in subbuglio perché la Casertana per le norme Covid è stata costretta a giocare con 8 giocatori contro la Viterbese, ha perso 0-3 e questa cosa li ha mandati su tutte le furie. Sui vaccini, a proposito dei vaccini, Matteo Bassetti, un altro virologo ben noto, ha detto che, visto le stime, se ne dovrebbero fare 1,7 milioni al mese e dice con questo ritmo, siccome il vaccino va calcolato doppio perché c'è una dose e il richiamo, quindi 1,7 lo devi ridurre alla metà, dice per arrivare alla copertura del 60%, 70.000 e tanto, ci vorranno anni, quindi che stiamo facendo? Insomma, mi sembra un quadro dove uno dei motivi che mi inducono a pensare che sia possibile la crisi di governo è che il manubrio è sfuggito di mano, cioè ognuno va per i fatti suoi, però vedremo, dai, perché Conte è abilissimo, adesso fa una nuova verifica, li riconvoca tutti lì. Forse gli farà fare degli stati generali il giorno di Capodanno. Di nuovo. Senti Paolo, guarda, il commento alla fine è sempre questo. Il caos regna sovrano. E alla fine sempre là andiamo. Ti porterei negli Stati Uniti molto rapidamente, il nostro ascoltatore. Guarda, negli Stati Uniti ti dico le notizie che mi colpiscono, è che Trump non desiste, ha nominato Sidney Powell cospirazionista, procuratore speciale per indagare sui trucchi e le elezioni, ma si è staccata da lui Ivanka, che si prepara alla prossima elezione e dà un'immagine totalmente diversa da quella del padre, e comunque c'è caos in campo repubblicano. Ricordiamoci che a gennaio, virus permettendo, ci saranno queste elezioni in Georgia molto importanti, ma la vera crisi è la crisi dei comici per Biden, cioè i comici, una volta scomparso Trump, qualcuno continua a fare delle ironie su Trump, però non hanno più presa, e il Saturday Night Live ha licenziato Jim Carrey perché ha detto che la sua imitazione di Biden faceva schifo, non faceva ridere e non produceva ascolti. Jim Carrey ha detto ma no, avevo un contratto limitato, ma insomma si capisce che far ridere con Biden è molto molto più difficile, e questo l'ha messo in crisi. Invece Paolo, se ci la pensi, notizia del giorno, sì, va bene? No. La notizia del giorno secondo me è quella del Louvre in Francia, però dimmi la quello che abbiamo vissuto con la fine di Silvio Berlusconi, no? Là si faceva satira, i comici facevano satira abbastanza facilmente, devo dire. Poi è entrato nell'ombra Berlusconi, adesso è diventato quasi uno statista e quindi diventa tutto molto più complicato. Poi c'è stato Salvini e la crisi di Salvini, però noi per fortuna abbiamo avuto Conte, che un po' fa ridere, mentre invece Biden sembra che non faccia proprio ridere, non o è, comunque non riescono, non riescono a prenderlo in giro. No, ma ti dicevo, secondo me la notizia del giorno, io avrei aperto su questo, è questa furibonda polemica che c'è intorno al Louvre, che i giornali francesi sono pieni, dunque i fatti innanzitutto, da noi ne parla Tommaso Montanari oggi sul Fatto, che al Louvre per fare soldi hanno cominciato a fare, che offrono per non so quanti euro, 2365 euro, che puoi assistere alla Gioconda che viene tolta dal quadro e ripulita, oppure per cifre 18.000 euro per passare tutta la notte tra le opere al buio con una torcia elettrica, 11.000 euro per un picnic preparato dal cuoco Meris sul tetto del museo. Insomma, una cosa. Allora Le Point ha fatto questa copertina dicendo 80.000 euro per un rendezvous privilegiato con la Gioconda, con Mona Lisa nuda. Sì. È una cosa di sfrenato, anche noi abbiamo, che affittiamo i musei agli stilisti e così, e Tommaso Montanari, che ti dicevo da sempre si batte contro questa contro questa tendenza, dice ma insomma un conto è consentire sfilate di moda, a cui lui comunque è contrario, a principio, sì. Però quello che sta succedendo in Francia, comunque, se qualcuno vuole passare un capodanno curioso può andare con Mona Lisa nuda e paga la cifra che vi ho detto, 80.000 euro credo che sia, però siccome i nostri ascoltatori penso se li possono permettere 80.000 euro, sì, certo, per sì. Mona Lisa nuda la notte di Capodanno. Si può fare. Caro Paolo, ci sentiamo domani mattina, direi. A domani. Grazie, ciao, grazie a te. Ciao, ciao. Buongiorno a Rossella da Roma. Iniziamo con l'ascoltatrice oggi. Va Rossella, eccoci. Dica, dica, dica. Allora, io volevo raccontare l'avventura dei ragazzi che erano a Gatwick, all'aeroporto di Londra, ieri sera, pronti a partire con tampone negativo e che hanno avuto i voli cancellati senza alcun preavviso. Farnesina e Consolato, una volta interpellati, hanno risposto: non abbiamo nessun modo di aiutarvi. Quindi ci sono moltissimi ragazzi giovani come mia figlia che sono bloccati in Inghilterra senza mezzi e senza nessun modo per uscire, perché hanno tentato via mare, tutto bloccato, attraverso il tunnel sottomarino pieno. Hanno provato in tutte le maniere a uscire dall'Inghilterra e adesso sono in una situazione paradossale, perché non possono tornare, non sanno dove stare e nessuno li aiuta. Allora, sono dei profughi. Adesso non esageriamo, Rossella. Un profugo è una cosa un po' diversa. Però allora, il punto è chiaro. Guardi, tra poco abbiamo la sottosegretaria Zampa, la sottosegretaria della Salute, e le chiediamo se il governo ha intenzione di intervenire su questo fronte. Intanto, però, rimaniamo proprio sul tema della variante inglese, perché è da qua che vorrei partire con Antonella Viola, immunologa all'Università di Padova, che torna da noi. Professoressa Viola, buongiorno, bentornata, eccoci. Buongiorno a tutti. Allora, quello che ho capito io dalle cose che ho letto oggi, professoressa, è che è più veloce a trasmettersi, non necessariamente più letale, ma non lo sappiamo, non interferisce con il vaccino, o quantomeno non sappiamo se interferisca con i vaccini sviluppati finora. Ho capito bene? Allora, in realtà non sappiamo niente di tutto questo, nel senso che i dati sulla capacità di infettarci meglio e quindi di essere più contagioso sono dati per il momento che derivano dall'analisi matematica che è stata fatta della diffusione del virus, che però può dipendere da molte altre ragioni, no? Dalle nostre abitudini, dall'area in cui si è diffuso, quindi prima di trarre delle conclusioni definitive bisogna fare gli esperimenti di laboratorio per vedere se effettivamente l'R0 di questo virus è maggiore rispetto a quello della variante precedente. Sembra però dai dati matematici effettivamente che si sia, diffuso estremamente velocemente, quindi c'è un'alta probabilità che questi dati confermeranno la sua maggiore contagiosità. Per quanto riguarda gli altri due aspetti non sappiamo assolutamente nulla, non sappiamo se la malattia può essere più severa, questo non c'è proprio dato modo in questo momento di saperlo, se non cominciamo ad analizzare appunto in laboratorio le proprietà di questo virus. E poi l'aspetto sui vaccini: è altamente improbabile che le mutazioni che ci sono sulla spike possano rendere inefficaci i vaccini, però è anche vero che alcune di queste mutazioni possono effettivamente interferire con la capacità degli anticorpi di bloccare il virus, di neutralizzarlo. Quindi non possiamo dire no, è assolutamente escluso, possiamo dire che è improbabile. Quindi ci ha dato una serie di informazioni non particolarmente rassicuranti, professore Saviola, ma non è il suo mestiere del resto. No? Se vuole io posso inventare, però. No, per carità. Senta, il fatto che, da quel che abbiamo capito, da quel che ci dicono i modelli matematici, si diffonde più rapidamente, crea anche questo un grande problema, perché quello che sappiamo e che abbiamo raccontato fin dall'inizio, che la crisi da Covid, la crisi di questa pandemia, è una crisi con un aspetto sanitario preponderante, ossia quanta gente ti trovi ricoverata in ospedale e quanta gente ti trovi in terapia intensiva, la dico molto brutale. E il tema è ridurre la pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive e sul mondo della medicina in generale. Dunque, il fatto che si diffonda più rapidamente può essere un elemento di preoccupazione ulteriore. Certamente sì, questo già da solo sarebbe un elemento di estrema preoccupazione, perché potrebbe appunto aumentare il numero di persone positive nei vari paesi e quindi, come diceva giustamente lei, portare un ulteriore sovraccarico a livello ospedaliero. È già da solo un motivo di estrema preoccupazione questo, ovviamente. Abbiamo chiuso, come abbiamo sentito dall'ascoltatrice poco fa, i voli, gli arrivi dalla Gran Bretagna. Lo hanno fatto anche molti altri paesi naturalmente, ma la realtà è che questa variante è presumibilmente già qua, professoressa. È molto probabile perché gli scambi ci sono stati ovviamente in questo periodo, e se si diffonde così velocemente, ahimè, è difficile, abbiamo visto già in passato che è difficile bloccare un virus attraverso i confini naturali dei paesi, quindi noi o politici, noi dobbiamo in questo momento fare sequenza in Italia per capire se effettivamente la variante c'è già ed è già diffusa. È ovvio che in questo momento una precauzione per evitare un'ampia diffusione di questa variante è necessaria, però se effettivamente è già qui ed è in circolo, non so quanto queste misure possano riuscire a interferire con la naturale evoluzione della malattia. Se avete domande o dubbi c'è l'800 24 00 24, o il 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, o anche per gli WhatsApp scritti, cioè quello di un ascoltatore che dice: se esiste già una variante, solo perché in un paese ben organizzato l'hanno identificata. Questo significa, chiedo a lei, è un'affermazione ma gliela giro come domanda, questo significa che di varianti ne esistono già numerose in posti ancora non noti? È possibile questo, professoressa? Ah beh, certamente, il virus muta di continuo e varianti ne vengono fuori di continuo. Il problema è se una variante ha la capacità di imporsi sopra quella precedente, no? Noi abbiamo già visto che c'è stato un cambiamento, la famosa variante, la D614G, è una sigla, è orribile chiamarlo così, però insomma c'è stato già un cambiamento all'inizio, no? Per cui il virus che è partito da Wuhan, dalla Cina, è mutato e da noi in Europa e adesso anche in tutto il resto del mondo si è imposta questa nuova variante. Nuove varianti si generano di continuo, poi bisogna vedere se hanno un vantaggio rispetto all'altra, perché si impone una variante solo se conferisce un vantaggio al virus. Se la capacità di diffusione fosse confermata, a professoressa Viola, per quel che vediamo, secondo lei ci vorrebbero nuove misure restrittive? Sì, nel senso che il contagio dovrebbe aumentare ovviamente noi dovremo rivedere anche un po' tutti i nostri calcoli. Se il virus muta anche nella sua modalità, nella sua capacità di infettarci, faccio un esempio, finora questa malattia, il Covid-19, si è diffusa soprattutto attraverso eventi di superdiffusione, no? Noi sappiamo che non c'è un'infezione uno a uno, un po' come avviene con l'influenza, ma ci sono questi superdiffusori che sono responsabili della gran parte dei contagi. Ecco, se con questa variante si andrà verso una situazione ancora di questo genere o sarà più un tipo di infezione più simile a quella dell'influenza in cui ogni positivo può infettarne un altro, questo ovviamente cambia anche proprio la gestione dell'epidemia. Una domanda fondamentale, professoressa, ma questa variante è stata scoperta adesso o è una variante che, come qualcuno dice, era presente, era nota già da tempo? È stata scoperta a settembre nel Kent, in Inghilterra. Si pensa che sia nata in un paziente che faceva fatica, aveva un sistema immunitario un po' compromesso, per cui è rimasto infettato per molto tempo, un cosiddetto paziente cronico, no? Con un'infezione cronica, per cui il virus all'interno di questo paziente ha avuto il tempo di mutare e di inserire più e più mutazioni al suo interno, perché la cosa particolare di questa variante è che possiede tante mutazioni. Quindi da settembre era stata identificata e poi da lì si è diffusa. Scrive un altro ascoltatore, le faccio un po' di domande che ci stanno arrivando, perché giustamente le persone vorrebbero avere qualche dettaglio in più che forse non abbiamo, però facciamo quello che possiamo. È possibile a livello in generale che una variante del virus renda inefficace il vaccino? Cioè, lei ci ha in parte risposto prima, professoressa, però è a livello generale, cioè è possibile che una variante del virus il vaccino non sia efficace su una variante del virus? Allora, è possibile che venga fuori una variante che muta così tanto rispetto a quella precedente nella proteina spike, perché in questo momento stiamo parlando, immagino, dei due vaccini approvati, cioè quelli basati sull'mRNA che produce la spike. Ecco, è possibile sì che ci sia una variante che muta così tanto a livello della spike, per cui gli anticorpi che vengono prodotti in risposta al vaccino non riescano a riconoscere la spike della nuova variante. Questo è assolutamente possibile. Ma gli inglesi l'hanno, come qualcuno dice, l'hanno tenuta nascosta questa variante, professoressa? Ho visto, lei mi dice, era nota da settembre, da settembre la si conosceva. Forse hanno tenuto nascosti i dati, l'hanno tenuti un po' sotto traccia? No, ma non si tratta di questo. Si tratta del fatto che varianti ne vengono identificate di continuo, no? Quindi di continuo, quando noi facciamo le sequenze dei virus, vediamo che ci sono delle varianti. Anche quando ogni singolo paziente si infetta, al suo interno il virus muta, perché il virus muta quando replica. Quindi il problema è capire se una variante prende il sopravvento sulle altre, però per saperlo ci vuole tempo. Appena gli inglesi si sono resi conto che questa variante stava diventando effettivamente dominante, hanno avvisato e hanno comunicato questa scoperta. Infatti ancora i dati, per esempio, noi non li abbiamo pubblicati. La ringrazio e grazie Antonella Viola, immunologa all'Università di Padova, per essere stata con noi e per averci aiutato a rispondere a qualche domanda su questa variante inglese. Speriamo di sciogliere nella maniera migliore possibile, in maniera positiva, tutti i dubbi che abbiamo oggi. Grazie professoressa Viola, alla prossima. Buona giornata, una pausa. Molto rapidamente, Rizza da Roma, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ma prego. Vorrei sapere una cosa, ma come si fa? Io sono tornato da Londra, poi sono tornato per lavoro. Ma come si fa a tornare in famiglia quando si vive a Londra e magari a 20-30 anni si prendono determinate decisioni? E se altre persone che non sanno che cosa dire e che cosa fare, la variante di Londra lo sapevano da una vita già che c'è stava, perché sono stati i primi insieme agli americani che possono utilizzare il vaccino. Loro non sanno mai niente, non sanno. Com'è possibile questa cosa? La signora Gloria, l'ultima che ha parlato, dovrebbe insegnare, l'altra che parlava prima, che non sapeva appunto nulla, se vorrebbe tranquillamente licenziare. No, ma perché... guardi, Rita, non è esattamente così. Come le ha spiegato la professoressa Viola, ce ne sono tantissime, ce ne sono tante di varianti. La ricerca scientifica a un certo punto scopre che una variante è più pericolosa di altre, in quel momento diffonde le informazioni, ma i dati non è che sono disponibili subito. La ricerca scientifica non è una cosa che fai come un tweet, cioè scrivi un tweet e un secondo dopo è pubblicato. Sandra Zampa, buongiorno, sottosegretaria alla salute, bentornata. Come sente anche dall'ascoltatore c'è un po' di preoccupazione, sì, un po' di timore se vuole, via dicendo, in merito a questa variante inglese, della quale, come diciamo la professoressa Viola, in realtà non sappiamo ancora abbastanza, e però l'idea che si possa andare verso nuove restrizioni già sta circolando. Che ci dice? In questo momento tra di noi non sta circolando l'idea che si vada a nuove restrizioni. In questo momento sta avvenendo avanti con forza un appello a tutti coloro che sono tornati negli ultimi 15, che hanno circolato negli ultimi 15 giorni in Inghilterra o ci hanno soggiornato e sono arrivati in questo periodo, perché ovviamente denuncino la propria presenza, il proprio arrivo agli distretti, alle proprie ASL, e vadano subito a farsi un tampone, anche se lo hanno già fatto in Inghilterra prima di arrivare. Questo per un fine evidente, e cioè che va ricercato la presenza eventuale della nuova variante. Quindi le tracce si possono rilevare, possono essere rilevate dal tampone, e questo va fatto. Ma nuove restrizioni perché dovrebbero esserci? Non capisco il nesso, capisco il terrore che ormai, come dire... Beh, sottosegretario, dato che la diffusione è più rapida, è possibile, no, che inizi a circolare la cosa, no, che si vada verso nuove restrizioni, semplicemente questo, non è che... È evidente che se ci fossero delle riprese di contagio, questo, come tutti sanno, costringerebbe noi, nel senso di noi paese, ad altre ulteriori misure costrittive, perché come ormai è arcinoto e anche evidente, soltanto l'isolamento ti permette davvero di contrastare la diffusione del virus. In questo momento però io direi non facciamoci prendere dal panico in modo così abbastanza scomposto. I nostri scienziati ci dicono che questa variante non è più pericolosa di quell'altra, va più veloce, quindi è evidente, a maggior ragione i cittadini rispettino le regole che sono state già diffuse e che ormai conosciamo tutti a memoria. Il distanziamento sociale resta in testa a tutti, ma anche indossare la mascherina, quindi non stare in luoghi chiusi con molte persone o con persone che non si frequentano abitualmente, continuare ovviamente a igienizzarsi assolutamente le mani. Nel frattempo questo, sapete che è già stato isolato al Celio un caso, e quindi adesso bisognerà che chi è rientrato, e questo è indispensabile che venga fatto, chi è rientrato dall'Inghilterra faccia un tampone. Il tampone è subito, questo è stato messo nell'ordinanza, quindi chi non lo fa viola una disposizione stringente, perché ieri l'ordinanza è stata firmata dal ministro nel pomeriggio e dal momento in cui viene firmata è valida. Sottosegretaria, ci sono indicazioni per gli italiani che sono rimasti in Gran Bretagna ed stavano per prendere un volo, stavano per partire e questa via dicendo? Questa è una cosa che profondamente, io ieri ho ricevuto tantissime telefonate, tutti ormai abbiamo amici, parenti che hanno figli, persone giovani, e so il disagio enorme di queste persone. Ci siamo sentiti col ministro, adesso occorre un coordinamento europeo al più presto, cioè che la decisione venga presa a livello europeo e si cerchi di capire come fare. Di certo i nostri cittadini non possono essere abbandonati a se stessi là, e comunque devono avere, avranno nelle prossime ore indicazioni, si stanno già lavorando in questa direzione. Ok, non c'è ancora nulla di definitivo su questo fronte, devono ancora aspettare un per po' ora, in sostanza. Sì, non possono rientrare, però per ovvie ragioni, insomma, sì. No? Dopodiché non so se verrà chiesto un tipo di tampone diverso, se invece stanno ipotizzando altri di farli rientrare, però poi di metterli in isolamento con tampone, questo io non lo so, quindi poiché non vorrei contribuire alla confusione generale, preferisco dire quello che so, e cioè che se ne stanno occupando, bisogna che la Farnesina in questo, ma sono certa che è già al lavoro, da ieri il ministro mi ha detto che c'è un coordinamento europeo, quindi ci sarà ovviamente un confronto a livello europeo. Ascolti, sottosegretaria, oggi il consulente del Ministero, il vostro consulente Walter Ricciardi, dice due cose che le vorrei far commentare. Parla di misure restrittive almeno per un altro mese, mese e mezzo dopo il 7 di gennaio, genericamente intese, non so esattamente a cosa si riferisca, e della difficoltà di far riaprire le scuole il 7 di gennaio. Ci dà una risposta su questi due fronti? Allora, le misure restrittive significa che sicuramente si torna alle fasce, siccome l'hanno chiesto anche a me in un'intervista in un altro contesto, penso di avere compreso cosa intenda dire il professor Ricciardi, e cioè che è evidente che non è che una volta concluso il periodo delle festività con le attuali misure restrittive cosiddette natalizie, si proseguirà ovviamente con il sistema delle tre fasce, giallo, arancione e rosso. Quanto alla scuola, c'è un dibattito in corso, molte regioni avevano problemi abbastanza seri, nel senso che hanno manifestato, alcuni presidenti di regione hanno manifestato molta perplessità, credo che si vada in una direzione di una mediazione, molte regioni stanno lavorando invece perché si possa aprire, anche mettendo a disposizione molti più pullman, autobus. La mia regione, l'Emilia Romagna, per esempio, ho sentito il presidente Bonaccini annunciare l'arrivo di altri 500 nuovi autobus. Quindi sarà in ordine sparso la fine della didattica a distanza. Ma io credo che dovremmo riuscire ad avere una riapertura, magari con orari sfalsati oppure con ingressi o a turni. Credo che si lavori a una mediazione che va in questa direzione. Ovviamente deve valere per tutti. Lei sa però che attualmente i presidenti di regione hanno la possibilità di misure più restrittive, quindi se un presidente di regione sa o ritiene che l'apertura della scuola, a parte che dobbiamo sempre dire che per fortuna parte della scuola è sempre stata aperta, certo, è sempre stata aperta. Ci mancherebbe solo questo. Potere di ordinanza che abbiamo visto in azione ad esempio in passato, a partire dalla Campania, ma non solo quella. La ringrazio e grazie sottosegretaria Zampa, per essere tornata a noi, sottosegretaria Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, Peter Bescapa in regia, Lorenzo Nespoli in assistenza, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca in redazione, Margherita e Francesco Ciaraffo i nostri autori. Ci risentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.